Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Rubano calore all'atmosfera, ma anche dal terreno, dall'acqua di un fiume o di una falda acquifera, e lo utilizzano per riscaldare la casa. Sono le pompe di calore, ne abbiamo parlato altre volte. Una tecnologia alternativa a quella delle caldaie che consente di risparmiare non poca energia. La stagione fredda si avvicina, allora noi ne parliamo, anche perché in Italia, che in molte aree gode di un clima mite, le pompe di calore potrebbero dare un forte contributo a migliorare l'efficienza energetica del paese e anche a far risparmiare cittadini e imprese. Tuttavia, la diffusione delle pompe di calore in Italia è ancora molto limitata. Facciamo allora il punto della situazione con Michele Vio, presidente di AICAR. AICAR è l'Associazione Italiana del Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione, ed è un'associazione culturale che raccoglie dalle aziende ai ricercatori, ai progettisti che ricadono all'interno di questo campo. Buonasera Vio, benvenuto a Mr. Kilowatt. Buonasera. Allora, iniziamo da qualche dato. Le chiedo di aiutarci a capire qual è la diffusione attuale delle pompe di calore in Italia e il trend soprattutto. Il trend è sicuramente positivo, soprattutto è molto positivo sulle macchine di grossa taglia. Dico questo perché il trend è sicuramente positivo anche sulle macchinette di piccola taglia, quelle per usi domestici, solo che i dati tra il 2008, 2009 e 2010 possono generare anche confusione, per il semplice motivo che di mezzo c'è stata una crisi. Invece molto interessante è il dato sulle macchine di taglia maggiore, quelle che possono essere utilizzate per uso alberghiero, perché rispetto al passato sono aumentate anche del 40 e del 60% sulle taglie più grosse, proprio perché le pompe di calore vengono utilizzate anche per il condizionamento estivo e sempre più spesso vengono utilizzate al posto dei comuni refrigeratori d'acqua. Quindi in pratica, siccome in queste strutture come gli alberghi, i grandi palazzi dove ci sono gli uffici, bisogna mettere un sistema di condizionamento, si mette una pompa di calore che fa sia il condizionamento estivo che il riscaldamento invernale con una spesa di poco superiore, vero? Sì, a quella del sole, 20% anche meno sulle taglie maggiori rispetto al solo condizionamento. Esatto. Va bene, esatto. Quindi insomma conviene proprio in questi casi mettere la pompa di calore, perché si spende di meno anche per l'impianto. Quali sono in generale i climi più adatti per l'installazione di pompe di calore? Le pompe di calore, più elevata è la temperatura media invernale, quindi più il clima è mite, meglio lavora la pompa di calore, quindi tutto il centro-sud Italia è particolarmente adatto alle pompe di calore, tanto che da un decennio in alcuni alberghi, soprattutto in Sardegna, dove non c'è il metano, ma anche in tutto il sud Italia, le pompe di calore vengono già utilizzate come alternativa alla caldaia. Diciamo che comunque anche il clima del nord Italia è particolarmente adatto, perché è un clima mite, a parte le punte quando la temperatura è inferiore allo zero, cosa che però avviene per poche ore l'anno in tutto il nord Italia, il clima è particolarmente adatto. La pompa di calore può andare in crisi quando ci sono temperature molto basse e soprattutto l'umidità dell'aria è molto alta, se viene utilizzata l'aria. Però qui qualcosa si può fare. Ecco, che cosa si può fare? Ecco, intanto si può lavorare sulla tipologia di pompe di calore, perché non esistono solo le pompe di calore elettriche, ma esistono altre tipologie di pompe di calore, tipo quelle a gas con il ciclo cosiddetto ad assorbimento. Queste macchine sono particolarmente adatte a climi molto rigidi e possono produrre acqua anche a temperatura elevata. Ma poi comunque si possono utilizzare macchine ad aria abbinate a delle caldaie. Si spegne la pompa di calore quando non è più conveniente dal punto di vista energetico e o economico, perché sperando diciamo che le due cose coincidano, diciamo così. Oppure si possono utilizzare altre sorgenti diverse dall'aria. La cosa migliore sarebbe la falda, quindi quella che si intende, la falda acquifera, un fiume, un lago anche, certo. Qui però è la sorgente migliore in assoluto e viene utilizzata in tutti i paesi. Purtroppo da noi rischiamo che di perderci nella burocrazia, perché questo è qualcosa che riguarda le singole province, per cui quello che va bene in un posto non va bene nell'altro. La legislazione sulle acque è molto complicata, sì. Esatto. Oppure c'è il terreno, terreno che però ha una accortezza che bisogna avere, cioè utilizzare il terreno sia per il riscaldamento invernale che quello estivo, altrimenti il terreno finisce per ghiacciarsi o surriscaldarsi, vero? Esatto, questo è l'altro. Esatto. Dunque, vediamo due aspetti considerati critici. Intanto c'è un problema legato alla tariffa elettrica, no? Cioè, se uno utilizza energia elettrica per scaldarsi, per come sono fatti i contratti, quando si supera un certo consumo si comincia a pagare piuttosto pesantemente, cosa che però non dovrebbe accadere, perché in realtà lo si sta facendo per risparmiare energia. Come sì, si fa? Esatto, un paio d'anni fa l'autorità ha messo questo vincolo: oltre un certo limite si paga di più. Cosa vuol dire? Può essere il caso che chi passa dalla caldaia alla pompa di calore sposta del consumo dal gas all'energia elettrica e quindi rischia paradossalmente di essere penalizzato. La cosa si può superare con il doppio contatore, cioè si mettono due contatori, uno normale e uno per la pompa di calore. In questo modo il problema è del tutto superato. Ecco, a volte non è possibile farlo e qui ci aspettiamo che arrivino delle soluzioni anche dei prossimi decreti attuativi o comunque insomma si prenda atto e si risolva questa situazione. Grazie Michele Vio. Prego. Buona serata. Beh, insomma, per concludere, se volete sostituire la vostra vecchia caldaia con una pompa di calore, avete capito che fare i conti non è semplicissimo, soprattutto per ragioni che non stiamo qui a spiegare, se intendete utilizzare il vecchio impianto di riscaldamento a caloriferi. Il consiglio, insomma, è quello di rivolgervi a un termotecnico, di farvi fare più preventivi per valutare bene costi e benefici. Per questa sera è tutto, appuntamento a domani.